avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Capita di tossire, che ridi. Questa mattina vi faccio divertire, dai, oggi è venerdì. Voglio che sia un fine settimana tranquillo e lieto per voi. Io mi sono fatto l'ultima sniffata di propoli, quindi mi sento pronto ad affrontare questa mattinata radiofonica, anche se mi sorge spontaneo il tossire, perché evidentemente ancora la mia salute non si è particolarmente rimessa a posto. Questa mattina voglio dare soddisfazione a una parte di pubblico che è fortemente motivato al proprio accrescimento culturale. Ciao Gianluca, sono Giusy di Cantù. Forse mi puoi regalare un libro infame, come lo chiami tu. Grazie. Ho bisogno di un libro infame come pronto soccorso per titillare le passioni sopite di mia moglie. Grazie. Che regalate dei libri indecenti. Io sarei interessata a riceverli. Desidero avere quanti più libri possibili per me e per i miei 3 piccolissimi bambini. Voglio dei libri perché non ho il tempo di andare in libreria a comprarli. Il tempo. I libri li mandano anche per corrispondenza, si comprano anche online. Diciamo che tutto ciò che ha regalo a Letta. Ma che la gente desideri avere dei libri mi fa molto piacere, anche perché essendo settembre le case editrici hanno ricominciato a mandare ricchi pacchi alle redazioni dei giornali, ai programmi radiofonici e televisivi, quindi il nostro armadietto straripa di libri infami. Non avendo modo, maniera e desiderio di dedicare trasmissioni a tutti i libri che ci mandano, ma continuate a mandarceli, io le farò generosa offerta alle persone del pubblico che se li meriteranno. Non è un regalo gratuito, è un regalo che bisogna guadagnarsi. Come questa mattina voi guadagnerete libri infami? Ne ho tanti, guardate, ho la scrivania piena, ne ho contati 15-16, sono bellissimi. Se qualcuno di voi può vedermi nella webcam di Radio 24, mi vedrà felice, tronfio, gongolante, circondato dai libri. Già nel mio profilo Facebook ho messo una foto, in ogni profilo, in cui si vede un assaggio dei libri che avrete in regalo questa mattina. Regaleremo libri infami finché avremo tempo, finché avremo motivazione. Cosa vi chiediamo però questa mattina per avere in cambio libri infami? Vi chiediamo di proclamare un vostro record. Vorremmo stabilire la classifica del Guinness dei primati degli ascoltatori di Melog. Voi dovete raccontarmi una vostra eccellenza. Guardate, l'eccellenza può essere anche in cose banalissime, semplicissime. Vi faccio qualche esempio. In cose io penso di eccellere? Beh, in poche cose. So fare il margarita come non lo sa fare nessuno. Sfido qualunque barman. Perché? Perché mi sono specializzato, perché mi faccio mandare il sale dall'Inghilterra, perché cerco i lime del gusto giusto, perché invece che il Cointreau vado a cercare un liquore all'arancio che fanno i frati di Camaldoli, sto cercando di variare poeticamente la formula del margarita, lo spessore del vetro del bicchiere, la gradazione del tequila, il tipo di tequila, la maniera di mixarlo. Questa sera farò un tequila party con un'amica mia che ha avuto una delusione amorosa e viene a casa mia a cercare una spalla per confortarsi. Già sto preparando tutta una rassegna di oggetti per fare il miglior margarita del mondo. Se io volessi partecipare a un Guinness, lo farei per il migliore e più fantasioso margarita del mondo, ma non è soltanto questo. Questa musichetta, questo stacchetto che userò per proclamare il vincitore ogni volta del libro infame ha una storia, è legato a un mio secondo Guinness, ma forse il più importante. La musica è composta dal maestro Riccardo Alemanno, che avete già sentito qualche giorno fa nella sua impropria veste di direttore dell'ACI di Roma. In realtà è un musicista, in realtà questo è lo stacchetto della sollevazione di piazza delle donne. Io lo uso ogni volta che alzo donne. Ho fatto l'anno scorso già una trasmissione, abbastanza risaputo che io abbia messo a punto la disciplina del sollevo di sollevare donne. Vado nelle piazze d'Italia Italia e sollevo donne sconosciute. Sì, le prendo sulle spalle. Ho stabilito il record l'ultima volta a Vittorio Veneto nell'occasione della riapertura di una casa chiusa, la Pensione Rosa, che oggi è abitata da una polposa commercialista che si è fatta sollevare anche lei. Ho sollevato 36 donne sulle spalle nell'arco di 1 ora e 10. Quindi fate il conto. Considerato il peso medio di queste donne, io ho sollevato in 1 ora e 10 2,5 tonnellate di carne femminile. Beh, vorrei vedere chi riesce a superarmi in questo record. 800240024, quali sono i vostri Guinness, i vostri primati? In cosa pensate di eccellere? Io eccello in un'altra cosa, nello sbagliare gli amici e le amiche. Io in tutta la vita, ci pensavo poco fa, se faccio il computo di tutte le persone a cui ho dato amicizia, affetto, frequentazione, fiducia professionale, ma me ne rimarranno buoni 2 o 3 in 56 anni, quindi ho sempre sbagliato le amicizie. E questo è un altro Guinness, io sfido chiunque aver preso tante delusioni, tante fregature da amici e amiche. Ecco, in questo è il mio terzo Guinness. Avete i vostri Guinness? 800240024. Watching from me, ever instant along me, ever is stinky, ever funky. 1, 2, 3, go. Diciamo che la rete è ricca di persone che proclamano il proprio primato, la propria eccellenza. Questo è un maestro rumorista, è quello che fa più rumore nella bocca. Ma guardate che anche la televisione si è appropriata di questa scellerata maniera di proclamare una propria eccellenza. Quanti sono i programmi con i Guinness dei primati, la donna con più tette, l'uomo più nano, l'uomo più gigante? Ma mi ricorda che al tempo del ginnasio dei Salesiani c'era un signore, un ragazzo, allora oggi è un signore, ho visto che è anche un noto avvocato di Perugia, quindi non posso dire il nome, che aveva una sua eccellenza, una sproporzione nelle sue qualità virili che ostentava sul banco in maniera orgogliosa. A ricreazione, mi ricordo, c'era sempre queste misurazioni. Voi direte, ma che cosa arcaica? E beh, lui aveva quello e metteva quello sul banco. Ma ci sono anche un'infinità di altri. Ricordo quello che faceva il rutto più lungo, quello che parlava e cantava con i rutti. Io pensavo che fosse una sorta di scellerata maniera per proclamare infami eccellenze nell'area agreste, rurale, arcaica del Perugino. Ma in realtà una sera ho visto un programma con Barbara D'Urso che presentava il Guinness dei primati, c'era la donna ruttatrice e che anche lei parlava con i rutti, quindi evidentemente questo tipo di eccellenza è proclamata anche in televisione. Ecco il primo. Andrea, buongiorno. Buongiorno, sono Andrea, provincia di Treviso. Stavo ascoltando, mi ha fatto tornare in mente un ricordo, forse un po' da nerd, ma è bello ricordarlo. Quindi lei, sì? Per vincere un libro infame naturalmente ci telefona, non gratuitamente. Ma a sua scelta. Mi piacere ricordare e condividere. Poi lei deve essere motivato anche nel desiderio e nel piacere. Sennò mi sento motivato. Vuole un libro infame? Voglio un libro infame. Non abbia vergogna, lei manifesti il suo desiderio. Manifesto il mio desiderio e lo ufficializzo. Vuole un libro infame. In radio. E sì. Per meritarlo cosa fa lei di eccellente? Ma di eccellente ho fatto, ricordo, una partita che è durata circa 24 ore con un singolo gettone, non so se ricordo, una volta c'erano i videogiochi del bar. Ah sì, col gettone, costava 50 lire. Diciamo costava sulle 250 lire, Vede, 1986. Ma si vede la differenza generazionale, capito? Ammetto quello. Lei giocava 10 anni dopo, forse. Non erano i tempi di Battlezone o di Space Invaders, però c'è stato un momento abbastanza divertente. Che mi è tornato in mente, ovvero sia il fatto che durante il pomeriggio un camion sostanzialmente ha fatto manovra al di fuori della sala giochi, all'interno della quale noi stavamo giocando, e il tubo di scappamento del camion ha sostanzialmente intercettato la porta d'entrata della sala giochi stessa. Questo ha fatto uscire tutti quanti i personaggi che stavano osservando questa partita un po' strana, tranne noi due, nel senso io e il ragazzo con il quale stavo. Quindi a voi il monossido di carbonio del camion ha funto da stimolante? Ha funto da... sostanzialmente la dinamica è stata la seguente. Ci davamo il turno per dei round di circa un minuto e mezzo trattenendo il fiato. Quindi io giocavo trattenendo il fiato con il ragazzo che stava fuori a pochi metri da me, e nel momento in cui io davo un gesto lui mi dava il cambio. Quindi diciamo il suo record sarebbe gioco a videogioco in apnea, però euforizzato. Il apnea con partita di 24 ore superando il record mondiale ufficiale, poi non so chi. Diciamo così, guarda che più bello. videogioco in camera gas. Ci sto. Ha vinto il record di videogioco in camera gas. Benissimo, mi sembra che però, guardi, lo faccio per incoraggiamento, ma perché in fondo sono merita, lei ha rischiato la vita e quindi sto consultando la nostra giuria e il nostro notaio, ma mi sembra che ci sia un giudizio unanime. Complimenti, hai vinto un libro infame, sarà l'orgoglio della tua biblioteca. Allora, l'ascoltatore Andrea, per lo sprezzo del pericolo per la tenuta polmonare che lo ha reso vincitore della più lunga partita videogioco in ambiente inquinato da monossido di carbonio, diamo il libro infame di Luther Cannabis con prefazione di Fabrizio Rondolino, L'erba di casa è sempre più verde, eco manuale di coltivazione indoor. Lei da oggi può coltivarsi tutta l'erba che vuole a casa, visto che ormai è abituato a respirare sostanze intossicanti o euforizzanti. È contento, Andrea? Davvero alcuna alternativa. Guardi, la ringrazio. Bene, grazie Andrea, alla prossima. Per questo vorrei regalarti tre suoni: una pistola, una mitraglietta e il treno, che non ricordo mai, nessuno ti ha mai fatto. Allora. Questo è un ascoltatore di Melog, di cui non abbiamo rintracciato il numero telefonico. Al tempo che noi parlammo dei fantastici film western made in Italy, nacque questo divertente gioco di imitare gli spari e tutte le sonorità possibili che ai tempi delle colonne sonore di, appunto, dei film di Sergio Leone davano un'impronta così fantastica alla nostra fanciullezza. Questo ascoltatore si produsse in tutta una serie di imitazioni orali, di rumori e sonorità. Lo mandiamo perché se lui ci chiama, ci telefona e ci ricorda il suo numero di telefono, merita senz'altro un libro infame. Intanto chiamate 800240024. Vedo che sono tanti a chiamare, non vorrei terminare la scorta che mi è stata data oggi in dotazione di libri infami, quindi chiamate e datevi da fare. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono specialista in tutti i giochi che provengono dalle scuole salesiane come te. Ma cominci, è motivato per avere un libro infame, quello va detto subito. Desidera... sono motivato sì, perché sono una capra e sarebbe ora che leggessi qualche libro, perché sarà 20 anni che non leggo più un libro, mi piacerebbe ricominciare. E noi lo aiuteremo ad aprirsi la mente e la sensibilità. In cosa lei eccelle? Guarda, io ti dico quello che cedo, nel gioco della carriola, non so se sei presente, quando ti alzano le gambe, tu solo con le braccia devi fare, devi camminare con le braccia. Sì, è uno dei giochi preferiti dell'oratorio, mi ricordo, sì. Esatto, e io praticamente è normale che comincio ad avere limiti di età adesso, perché vado per i 35, no? Ma lei con chi pratica la carriola in casa? Praticamente, Dio, adesso andiamo sull'intimo, c'è sempre una consorte ovviamente. Con sua moglie? Certo, però quella è un'altra cosa, eh. Ma la portatrice chi è? Sua moglie porta o sua moglie fa... No, diciamo che di solito io... Sai com'è qui in ambienti di... Si fa fra uomini, insomma, ecco. Ah, fra uomini, vabbè, ma si fa anche le corse di carriole, oppure... In si cosa consiste? Le carriole, perché noi praticamente seguiamo i giovani, ovviamente, e facciamo ad età, no? E io ovviamente ormai faccio l'over 35 ormai. E non trovo mai nessuno che riesce a battermi, anche perché ormai c'è sempre meno gente che vuole fare questa cosa, perché comincia a diventare un po' estrema visto l'età, no? Dunque lei, allora, se vogliamo definire il suo probabile record, qual è il record di carriola che si sente di aver superato e ancora non raggiunto? In metri, in durata di tempo, in cosa si stabilisce, si misura? Ma praticamente viene messo una linea bianca e di solito si fa appunto... Di solito, guardi, non si fa moltissimo perché la gente se no non lo farebbe. Si fa 30 metri, si fa 50 metri, al massimo siamo arrivati a fare 100 metri. Allora, 100 metri. Possiamo dire che lei ha battuto il record mondiale di carriola avendo fatto 100 metri. 100 metri, so che l'ho fatti in 53 secondi. Una breve consultazione con la giuria e con il notaio, sì, mi sembra che sono tutti d'accordo. Complimenti, hai vinto un libro infame, colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. all'ascoltatore Franco, maestro sin dai tempi dell'oratorio della arte sottile della carriola, perché abbia superato e sia possibile per lui superare il record della carriola dei 100 metri, diamo il libro infame di David De Filippi, Lapo e il Can, il Forrest Gump italiano, edizione Aliberti. È contento? Contentissimo! Quindi allargherà senz'altro i suoi orizzonti con questo fantastico libro. Allora, questo record, come avete già capito tutti, consiste nel rimanere completamente ricoperti di scarafaggi in una teca per il più lungo tempo possibile. Manuel questa sera verrà ricoperto da 8.000 scarafaggi. Si tratta di blatte fischianti del Madagascar, una delle specie più grandi esistenti al mondo. Il record da battere è di 2 minuti e 30 secondi. Io prima gli ho chiesto che sensazione ha con questo schifo addosso e lui ha detto che adora sentirsi massaggiare. Come è possibile ascoltare da alcune tracce di Guinness dei primati, che ormai rappresentano un format televisivo a sé stante, la ricerca delle facoltà nel muoversi nell'ambito e nel dominio della schifezza, i divoratori di scarafaggi, gli spalmatori di stercolari, gli immersori nei lombrichi. Si cerca ormai l'estremo, si cerca qualcosa che assomigli con la mostruosità. Invece vedo con soddisfazione che i primati, le eccellenze del nostro pubblico rimangono tutti nell'ambito ludico, giocoso. Almeno finora abbiamo avuto il giocatore di videogame nella camera gas e l'uomo cariola, che sono comunque delle pratiche che ricordano la vivacità, la muscolarità, la capacità di esprimersi anche in ambito gioioso. Vediamo se Emma contraddice il nostro trend. Emma, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io ho telefonato così d'amblè perché quando ho sentito parlare di Guinness mi è venuta in mente la mia eccellenza. Che però non è che lei ha chiamato perché vuole il libro infame? No, io ci tengo a dire la mia eccellenza. E non veramente vuole il libro? Allora guardi, evitiamo di darglielo. No, se vuole, se lo merito. Non lo so, lascio a lei il giudizio. Vediamo, all'inizio dobbiamo essere un po' ruffiani, sennò la gente non chiama, quindi saremo di manica larga. Cosa sa fare lei? Secondo me e anche secondo tanti miei amici mi dicono sempre... Si può dire alla radio, sì? Sì. Io vorrei essere il tuo cane perché come tratti tu i cani non c'è nessuno. Quindi la mistress praticamente. rida, capito allora. La salunga lei. Infatti no, questa aria da belle donzelle e regine della casa, ma dico una parolaccia, le capisce al volo di che sto parlando, la sapete lunga? Insomma, qualcosina, oltre a portare i cani al parco. Si fa. Ecco, comunque no, veramente, mi dicono sempre come tratti i cani tu, perché comunque io praticamente sono la loro governante, amo. Ma lei guardi, a questo punto è il momento della sincerità, lei porta al guinzaglio anche qualche suo amico? È troppo esperta di questa cosa. E non c'è mica niente di male. La canizza si è scatenata? Sì, perché c'è il passaggio dell'altro. Quindi lei, diciamo, riesce a affocare il demone carnale dei suoi amici, mostrando quanto è brava a portare a guinzaglio i cani, a essere dura nella disciplina quando loro non fanno i loro bisognini nel posto giusto, e i loro amici chissà cosa pensano che possa far con loro. È questa la verità. Può darsi, non lo so, comunque... Questa sua titubanza mi conferma l'essenza del mio cattivo pensiero e quindi, senza il giudizio della giuria, le assegno ciò che lei merita. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Hai qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. All'ascoltatrice Emma, regina della felicità del suo vicinato per come usa il guinzaglio, la museruola e il frustino, diamo l'importante libro edito dall'importante casa editrice Il Mulino Contemporanea per opera degli esperti professori Marzio Barbagli, Giampiero Della Zuanna e Franco Garelli, La sessualità degli italiani. Così non avrà nulla da imparare, ma avrà qualcosa probabilmente da insegnare. Contenta, Emma? Grazie mille! È il libro che le serviva, vero? Senz'altro! altro. L'avevamo capito. Grazie Emma, e a tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. Non fateci l'abitudine, siamo stati di manica larga all'inizio della trasmissione, dobbiamo rilanciare questa funzione altamente di servizio di regalare libri infami a chi ne abbia bisogno, a chi dice non aver tempo per comprarli, però dopo ha tempo da perdere per leggerli, come ci fa notare un ascoltatore. Saremo molto più restrittivi nel nostro giudizio, naturalmente, da adesso in poi. Stanno chiamando tantissimi nel proclamare la loro eccellenza in banali infamità quotidiane o anche in attività che meriterebbero senz'altro il plauso pubblico. Ad esempio Franco nell'84, mi scrive su Facebook, ha fatto parte della più lunga fila di ballerini di Tip Tap del mondo sulla 34esima strada di New York. Sarà vero o non sarà vero? Bello saperlo, ma è molto più divertente il signore maestro in carriola dei Salesiani, secondo me. Sara, 2004, Accademia di Belle Arti di Torino, sessione di esami, 11 esami sostenuti nella sola giornata, il lunedì 7 giugno, un primato personale, 11 esami in un giorno, ma come ha fatto? Non so, 11 esami tenendo conto una media di 20 minuti per esame, proprio se fatta in maniera più affrettata, ha passato tutto il giorno entrando e uscendo dalle stanze della sessione, ma può essere, questo non fa certo onore alla serietà e allo spessore dell'Accademia Belle Arti Torino, ammesso che fosse vero. Cominciamo a sentire adesso 800240024, ci sono già una serie di ascoltatori in attesa, bramosi di proclamare il proprio record, ma penso ancora più bramosi di avere il libro infame. Ricordo, nella prima parte abbiamo programmato una signora specializzata nell'educazione severa, un signore specializzato nella corsa alla carriola umana e un altro signore specializzato nel videogioco in apnea. Sentiamo Pier, buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa, ma nel frattempo mi sono messo in moto e quindi potrei, per i sintomi da fiatone. È in moto nel senso in motocicletta? No, ahimè, moto a piedi, perché nel frattempo ho parcheggiato e quindi devo raggiungendo la mia destinazione per un appuntamento. Contribuzione orale a Melog in stato di deambulazione. Potrebbe battere un record. Esatto, ma niente, io non è che sia una cosa di cui vantarsi tantissimo, difatti io ho chiamato esclusivamente per il libro. Lo so, giusto, bisogna sempre ammettere le proprie debolezze. Ho chiamato esclusivamente per il libro, io ho il dono di prendere le mosche, ma con le mani, cioè il fatto che tra gli amici, anche al bar o in famiglia, quando c'è una mosca, quella noiosa che dà fastidio, la frase è: Pier, per cortesia, uccidi la mosca. Quindi lei è un killer di mosche? Ma sì, è una cosa, ma non nel modo volgare con la mano, cioè io arrivo pianino con l'indice sopra la mosca ferma e la mosca sta lì ferma e io abbasso l'indice e la schiaccio. Ma lo schizzetto giallo degli intestini della mosca spiaccicata, sì, se lo gode, sì, tutto in mano lei? Ma devo dire, no, fa abbastanza schifo, certo, sì, di usare una delicatezza, ma ho fatto apprendistato con le libellule da piccolo. La libellula è più difficile però ammazzare, perché è lunga. No, beh, ma la libellula però da prendere è ridicola quasi, come si fa come prendere subito. Ecco, perché insomma... Ma lei riesce a ucciderle senza farle soffrire, naturalmente, sennò apriamo mosca, una crociata degli animalisti. Allora, a parte il fatto che, insomma, la mosca fastidiosa, signori, è fastidiosa per tutti, diciamole, di crociate, insomma... Guarda, io ho passato il mese di agosto con i miei figli, con una Desert, sì, Eagle a pallini, a uccidere le mosche in una casa in campagna, quindi... Quindi mi capisce, no? Ah, figuriamoci. Ecco, era divertentissimo, per ammazzare una mosca spendevamo 20 pallini, però quando la beccavamo era divertente. Ecco, allora, io la dico tutta, per me la mosca è un'esecuzione, come non so. Diciamo è un sacrificio rituale, una specie di tauromachia, però legata alla mosca, ecco. Sì, è un'esecuzione, cioè la mosca noiosa viene eliminata, cioè non, ma il problema è che è un dono, ma è un dono inutile, cioè qual è il... uno risparmia, invece di comprare la racchetta da tennis cinese, sì, che le fulmina, si porta a Pierre a casa e le ammazza. Quante ne ammazza? Però bisogna sempre quantificare il record. Ok, andiamo. Ma quante allora, al minuto? Allora, succedono di queste cose che, allora, innanzitutto ovviamente dipende, ma seduti in esterno al bar, sì, ho dei ricordi estivi, momento classico da mosca, diciamo, dove... nell'arco dell'oretta che si stava lì con gli amici, di queste mosche erranti tra un tavolino e l'altro, ne sono state abbattute 23, 24. 24 mosche al bar. Vediamo un po', breve consulto della nostra giuria. Abbiamo una giuria composta da il professor Rocchetti e il professor Intonti, che sono esperti appunto in Guinness dei primati. Ma non so, io non mi mostrerei troppo di manica larga, ma però devo dire che lo spiaccicamento della mosca forse ha un senso. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! All'ascoltatore Pierre, capace killer di mosche con un solo tocco di polpastrelli, regaliamo il libro infame dell'editrice cremese di Evan Wright, Generation Kill, il vero volto della guerra in Iraq. C'è anche un segnalibro a forma di siluro, di missile o di bomba atomica, quindi lei potrà acquisire delle maggiori tecniche di killeraggio delle mosche. È contento, Pierre? Sì, ho passato momenti più entusiasti nella vita, però sono comunque felice. È come sta sputando cosa. Sull'omaggio del libro infame, glielo ritiro. Dire no, che no, lei... no, assolutamente, assolutamente. Ho chiamato esclusivamente per quello. Ecco, poi sì, è stato assegnato, quindi dico, però sono felice, me lo aspettavo più infame, cioè dico, quello rischia di essere bello. No, io cerco di dare un libro che abbia un senso con il record, faccio una scelta accurata. Se vuole, ho anche Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, la storia di Tre Re Magi. Vuole cambiarlo con questo? No, si tenga questo qua, le conviene. C'è anche il segnalibro a forma di siluro, può essere utile in certi momenti. Grazie, arrivederci. Dania, buongiorno Dania. Ciao, buongiorno Gianluca. Allora, il suo record. Il mio business non è motivo di orgoglio per me, quindi ti dico subito che io miro al libro. Vedremo. Allora, ho il Guinness in sfiga, cioè sono una sfigata, me ne succedono di tutte. Ti cito un esempio. È vaga però, questa ognuno potrebbe dire in un momento di depressione, è uscito a casa questa mattina che avrei sbattuto la gente sul muro, quindi vediamo di definirla e quantificarla, perché la sfiga tutti ce l'hanno. Allora, ti cito un esempio, un mesetto fa al mare, allora io abito vicino al mare, quindi me lo faccio quasi tutta l'estate. Però sono tipo lucertolina, io sono da sole, no? Da acqua, no? Era un giorno caldissimo, entrai in acqua, l'acqua era strapiena di persone, entrai in acqua, 2 secondi giusto per rinfrescarmi, strisciata da una medusa. Vabbè, questo capita a chiunque, lei sta bleffando. Ma magari avranno più probabilità chi sta dalla mattina alla sera. Vabbè, a questo, mollo. Vabbè, gli altri stavano più attenti, lei è entrata inconsapevole. Dica altre cose perché ancora non mi convince. E poi, va bene, ho episodi inenarrabili su tutta la mia vita. Dedica qualcuno. Matrimonio in primis. Vabbè, questo ognuno potrebbe dirlo, scusi. Matrimonio ricco di vessazioni. Vabbè, questa non è sfiga, che sarà andata a cercare lei. Sennò... va bene. Nessuno gliela l'ha costretta a sposarsi, poi? Poi, va bene, poi, esempio, la mattina porto bimbi a scuola, uno non si ferma allo stop, questo è successo una settimanetta fa. Cioè, c'è mancato, cioè, io sono andata di riflesso, sono andata nell'altra corsia, che se veniva una macchina corso. Bisogna essere implacabili. Mi dispiace, l'ascoltatrice stava bleffando, stava simulando un record che non esiste. Ha enumerato una serie di circostanze quotidiane in cui incorriamo ognuno di noi, incorre ognuno di noi, quindi non si tratta di un record. 800240024. Siate precisi, soprattutto se avete qualcosa a dire, ditelo, che sia un'eccellenza. Se è la banalità non viene premiata, almeno in questo spazio. Ilaria. Sì, salve, buongiorno Gianluca. Vediamo se lei riesce a migliorare la media. Devo farlo perché ho proprio bisogno di infamità e mi sento troppo virtuosa, quindi desidero un libro. Guardi, infamissimo. Noi per mettere in crisi, la virtù altrui è la nostra specialità, quindi allora, ha trovato veramente la giusta clinica per il suo problema. Dunque, io credo di avere il record di portatrice di geco intirizzito e prossimo alla morte, portatrice a mani nude di geco durante le festività natalizie in giro per negozi. Un episodio risale a questo. Cioè, lei l'ha tenuto in mano intirizzito per 3 ore sotto Natale andando in giro per negozi. E non mi spiego come fosse vivo, l'ho trovato e sono uscita di casa per andare a fare questi infami acquisti natalizi. L'ho trovato sul bordo di un cestino, peraltro di un cestino dei rifiuti stradale, peraltro di alluminio, quindi anche freddissimo, ed era molto piccolo e mi sono chiesta perché questo animale vuole morire così. Ma c'è, diciamo, una proiezione metaforica in questa sua avventura o no, realmente è accaduto? Proprio papale, cioè dettagliata. Ci ha trovato veramente un geco piccolo indirizzito. Sì, ma sotto tentato... Natale non so perché fosse lì, perché dovrebbe essere morto in geco sotto Natale. Vabbè, non ho dati sulla persistenza dei gechi sotto Natale. Bisognerebbe, sì, no, poi fa freddo. A Firenze fa molto freddo sotto Natale. Lo prendo in mano e dico, vabbè. Guardi, io la fermerei su questa frase. Apprezzo la sua buona volontà, ma mi dispiace, non ci siamo proprio. Non basta, non è un'eccellenza, anche perché l'aver rinvenuto un geco intirizzito è la casualità, non appartiene all'eccellenza di una arte. Quindi si migliori e vedrà che anche la sua virtù sarà messa in un più precario equilibrio quando al geco sostituirà qualcosa di forse più vitale, che valga più la pena di raccontare come record. Ci sarebbe un'altra meravigliosa eccellenza che sto per darvi, ma preferisco prima darvi le informazioni del traffico e indicarvi il numero di telefono, che già sapete, ma devo occupare ancora 10 secondi, 800 24 00 24. Ascoltatevi le informazioni del traffico e fra un po' avrete forse qualcuno che meriterà il sudato premio. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Mi scrive Valerio su Facebook che ho confermato la sfiga dell'ascoltatrice di prima, perché neanche il libro infame le è toccato. E quindi ha ragione lei. Sì, ho confermato la sua sfiga, ma non è sufficiente per vincere l'ambito premio, sennò sembra che noi inflazioniamo il valore del premio. Abbiamo premiato molte persone perché era la prima volta, volevamo farvi capire che in realtà corrisponde al vostro merito una giusta gratificazione. Ed ecco Graziano. Graziano, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se il suo record vale la pena di essere premiato. Ah, non lo so, io guardi, ho sentito la trasmissione corrente, mi ricordo che tanti anni fa, per 36 volte, 33 anni No, parli lentamente, non si capisce niente, se no. Allora, cosa è successo? Ho detto parecchi anni fa, nel giro di 3 mesi ho fatto buco per 33 volte con una donna, logico. 33 cilecche continue con la stessa donna. Poi l'ho cambiata. Beh, se ne sarà andata lei. No, sono andato io. E lei pazientemente ogni volta ci dà, riproviamo, forse una volta buona. Si riprova. In quanto tempo è accaduto questo? 40 anni fa. No, ma in quanto tempo la durata? In 3 mesi. 3 mesi, quindi 33 cilecche, ci prova 10 volte al mese circa. Insomma, guardi lei. 10 volte al mese, quindi 3-4 volte a settimana. Beh, quello. Non bene, sì. Ma si è chiesto il perché con questa donna in particolare aveva questo tipo? Dopo mi sono chiesto, dopo l'ho fatto dopo e ora dopo ho scoperto il perché. E qual era? Si è dato una risposta? Beh, non posso dirlo. Ma è una cosa di tipo psicologico o di tipo organico? No, organico. Ah, organico, vabbè, evidentemente era legata a una incompatibilità. Comunque, guardi, questo record, anche se pur triste, però la gloria e il coraggio averlo proclamato, tutti gli uomini si vergognano, tutti dicono, io mai successo nella vita, ma succede nella vita, ogni tanto succede, fa parte dei momenti che bisogna appunto sopportare nella vita per sentirsi migliore, per migliorare. Ha detto, dicendo al successo tanti tanti anni fa, però 33 con la stessa persona è un record che secondo me merita un premio. Complimenti, hai vinto un libro infame, colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. Per il nostro ascoltatore che per ben 33 volte miseramente tentò l'assalto alla virtù della sua donna e per 33 volte ne uscì sconfitto, perché sappia che nella vita conviene sempre tentare e mai arrendersi, il libro di Alfio Caruso, edito da Longanesi, Io che da morto vi parlo, passioni, delusioni, suicidio, del professor Adolfo Parmaliana, che in qualche maniera ha delle attinenze con la sua vicenda. È contento? Contentissimo, grazie. Grazie, arrivederci. Passiamo al prossimo, Carmelo. Pronto? Carmelo, andiamo che abbiamo poco tempo, vogliamo dare buongiorno posto. Il mio Guinness dei primati risale a 2 anni fa, l'estate di 2 anni fa, con insieme a mio padre e altri 2 amici nostri abbiamo preso 17 kg di pesce in un paio d'ore. Ma guardi, questa è la tipica cavolata che raccontano i pescatori. Ogni pescatore. No, lei ci ha provato, mi dispiace. Testimoni. Testimoni, non ci credo. Carmen. Carmen. Ecco, lei in cosa eccelle? nel mantenere i mariti che poi fanno delle cose allucinanti. Tipo, ad esempio, lo fanno allora, tutte le mogli. Allora, primo marito mantenuto, sempre mantenerli purtroppo. Ah, lei li mantiene proprio nel senso che gli paga pranzo, alloggio, sì, vitto? Sì, ho avuto tre mariti che hanno perso il lavoro. Quindi... Che non facevano una mazza tutto il giorno, lei lavorava per mantenerli. Sì, certo, io lavoravo. Insegnante di inglese nelle superiori. Comunque le dico solo brevissimamente perché io a questo punto mi metto a ridere, cioè rido solo più. Allora, primo, ma veramente prima non ero marito, ero un convivente. Banale, scappato con un'altra donna, banale. Vabbè. Secondo marito molto peggio, 6 anni e mezzo di convivenza non mi sono accorta che era tossicodipendente e morto di overdose di eroina, e per cui io per tutta cuna sono diventata una tossica. Lei cosa pensava? Scusi, se facesse insulina, che avesse problemi di diabete, quando vedeva... Nessuno se ne è mai accorto. Si sparava in vena e non vedeva quelle piccole ematomi? No, perché l'ha sempre fatto lontano da casa mia. Sì, ma rimane qualche segnettino addosso, no? No, le assicuro. Nessuno, e purtroppo per cui adesso io sono passo per la tossica. Non c'è giorno... esagero, in cui non mi sento dire ma Carmen è una tossica, oltretutto essendo insegnante può capire. Sì signora, guardi, ho piena comprensione per la sua vicenda umana, molto dolorosa, ma se cominciamo a premiare le fatalità della vita, qua non c'è nessuno sforzo. Lei ha trovato degli uomini sbagliati, non li guardava con sufficiente attenzione e ha sempre subito degli uomini che in parte fanno parte della giusta catarsi che ha scelto per la sua vita, non so per quale ragione. Vito, vediamo. Vito? Ecco. Ah, sì, buongiorno. Niente, volevo dare la mia, la mia testimonianza. Niente, io ne ho parecchi di Guinness. Per esempio, mangiato un'anguria di 12 kg e mezzo da solo in 10 minuti, 8-10 minuti. Poi? Poi ho mangiato un profiterol completo da 1,5 kg da ristorante. In un ristorante che penso che ci sia ancora lì a Milano, è sulla Gallaratese. Se siamo in Robettina, guardi, c'è di meglio, mi scusi, ma devo essere implacabile, che ho stato troppo generoso anche prima. Via, Luca. Via, Luca. Luca, cosa ha fatto? Pronto? Sì, Luca. Buongiorno, Nicoletti. Senta, niente, io una 15 d'anni fa, dopo pochi anni che avevo la patente, a Modena in centro, in 400 metri, ho fatto 2 tamponamenti diversi. Dopo aver tamponato la prima macchina e fatta la constatazione amichevole, ho preso la macchina di nuovo, avevi i fanali rotti, nulla di grave. Dopo 400 metri all'altro semaforo ho tamponato un'altra macchina e quindi ho fatto un'altra constatazione amichevole. Siamo buoni? Sì, siamo buoni, va, siamo buoni. Complimenti, hai vinto un libro infame. Hai qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. Allora, Luca è esperto nel tamponamento plurimo, diamo il libro di Franco Ferrarotti, Spazio e convivenza, come nasce la marginalità urbana, perché sia più attento a fare altri tamponamenti e vincere altri record. Contento, Luca? Ma insomma, direi di sì, abbastanza, la ringrazio molto. No, sia entusiasta, se no gli seguo il libro, eh. Sono entusiasta. No, sono super entusiasta, anche perché è una cosa che mi ricorda pochi mesi dopo aver preso la patente e quando avevo 18 anni. Vabbè, adesso tagliamo perché siamo alla fine, abbiamo un ultimo probabile forse record di Francesco. Francesco, cosa ha fatto? Allora io qualche anno fa ho fatto l'amore con una suora in macchina. Guardi, questa sembra la tipica cazzata. No, circostanzi, perché sennò. Guardi, le garantisco che è vero. Infatti, il mio nome non è nemmeno Francesco. È chiaro, giustamente. Ma come accadde? Come caricò la consorella in macchina? Ebbene, una storia un po' lunga, non vorrei che. No, senza dare particolari, sennò come faccio? Il particolare è che la macchina, praticamente ci siamo fermati tra il muro del cimitero e la chiesa. Ma fu una cosa romantica? È abbastanza, sì. Quindi è una storia d'amore, non c'è nulla di... Sì, altro che. E in cosa lei individua il record in questa sua attività? Ma in effetti... Potrebbe succedere a chiunque. È una storia abbastanza particolare, ecco. Diciamo una storia d'amore, allora. Sì. Vabbè, siccome noi siamo persone innamorate dell'amore, innamorate del romanticismo... Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! proprio perché non volevo riportarmelo a casa, all'ascoltatore Francesco, e consumò una storia d'amore romantica sul liminare di un cimitero con una madre superiora, diamo il libro di Michel Tournier, Gaspare Melchiorre Baldassarre, editore Garzanti. È contento, Francesco? È contentissimo. Lo porti sempre sul cruscotto, così avrete anche qualcosa da leggere negli intervalli dei vostri ludi amorosi. Io saluto e ringrazio il grande professor Rocchetti, il grande professor Intonti, che mi hanno aiutato in questa improbabile operazione, e do l'appuntamento a lunedì. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.